DJ Smash! Kid had a restless wind, tossed on a troubled sea. Channing got a raging storm, headed for shore, bringing certain calamity. Just when you thought you're frightened, can be nothing worse than this catastrophe. Rain down fire and brimstone, carry a stony heart like Pompeii. Just like a funeral fire, eyes burn with ash, looking upon Ayakan. Blazing across horizons, fire. Feeling something wicked this way comes to town. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun, but it's a hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. We living through bad time, it's no lie. Some say they be waiting for the right time, the right time. The far horizon ceased and let the sunshine. No matter, cause all tides rise, it's all ships at the same time. Since I'm hurling down the street side, sinking deep below the quagmire. The other mates go down, down, down to no time. What we gonna do? Absolute power corrupts, it's the absolute truth. Lies be the devil's forbidden fruit. Don't you pick a bad batch till it is you. Living like a bad seed, making choices, yeah, you just can't see how the outcome destroys and deceives what your twisted heart just perceives. Yeah, I mean, I'd be made of stone to bring out the worst in me. Sure, I might be made of stone, you're my anchor when I'm sinking. This monster lives underway, on the bottom of the sea. In a cave, no one can see, or see, or find, or feel me. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun, but it's a hard rain gonna come. Blast it down before you turn to stone. Eh sì, siamo tornati, Fire Bomb Babylon, Port Royal, dalle 21 alle 23. Vi avevamo promesso una puntata in diretta dal Brancaleone, ma per motivi tecnici e anche logistici sarà una puntata multi... come si suol dire? Come si può dire? Multistudio? Una puntata itinerante? Inizio io, poi ci sarà Mister Otello direttamente da casa sua e poi Peter Roche dalla sua dimora. Quindi tre location differenti, ma è un unico programma. Port Royal, come sempre abbiamo iniziato insieme alla nostra sigla di Sparrow Moon, dedicata proprio a Port Royal, il nostro programma che come ogni mercoledì vi accompagna dalle 21 alle 23. Questa è l'ultima puntata del 2023 per concludere la rima e noi vi ricordiamo chi siamo. Are you ready? Yeah man, is a double champion the fire pan Babylon. Me no know a better sound, article sound, road selector. Fire upon Babylon, naughty babe. Watch come around, we tell her have no rest. Take her when you hear this that plate. Fire upon Babylon, mush it up in every place. Take her. Fire upon Babylon, naughty babe. Watch come around, we tell her have no rest. Take her when you hear this that plate. Fire upon Babylon, mush it up in every place. Mush it up. When you know this your sound make you dance. Follow me, no man, now follow me, no man, now follow me, no. Better no follow me upon the bush. Remember what the champion did tell me. We come from we fire upon Babylon. Hush make me feel like a judge or soldier. What tell you make me feel like a Harry man soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire upon Babylon, the ruling sound. Hush play the tune, cause the girl them a bubble. Article sound, them a killer some murder. Fire upon Babylon, the base. Wash come around, no tell her have no rest. Take her. When you hear this, that bleed. Fire upon Babylon, mash it up in every place. Take her. Fire upon Babylon, the base. Wash come around, we tell her have no rest. Take her. Hey, now take a pill, miss, and now take a pill. Fire upon Babylon, for the Babylon hill. Come. Babylon Hill, meets a Babylon Hill. F and in a de bash, queen a kill feral. Come, what do you feel, meets a what do you feel? Good vibration, violence, queen a deal. Laugh is a will, meets a laugh is a will. Turn and turn around from the top to the hill. Take her, fire from Babylon a de base. Wash go my road, no tell her have no rest. Take her, when you hear this, that bleed. Fire from Babylon, mash it up in every place. Take her. From Babylon and the base, hush come around, we tell her I've no rest. Take come follow me no man now, follow me no man now, follow me no hey. Me tell you no follow me, but now I remember what the champion Italy. We come from we fire upon Babylon. Hush make me feel like a judge or soldier. We tell her make me feel like a Harry man soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire upon Babylon, the ruling sound. Hush play that tune, cause the girl them a bubble. Article sound, them a killer sound. And Babylon, the real mad sound in the area from Rome. On a ready for Hotel Lota Willie MC, Selecta, Ash, Smash, and Hilario. This is Miss Tinda from Earthbeat Movement Style. On a ready for this champion sound. People no need no more vampire. Let your energy be your light. Me tell ya about fire from Babylon. When them a go play the dance floor gets hot. People no need no more liar. Let your energy be your light. Fire from Babylon. When them a go play Babylon's burning. Boom! When fire from Babylon play, them mash up the place. This is the best sound. Good music and vibes. Hotel up on the mic, I go call up, pull up. While I smash and I love your pump only good vibes. Me want to listen fire from Babylon. Cause them are the best. Them have the fire. Tonight we are on the right side. Me I go dance with fire from Babylon. And now all, oh, oh. All the bad energies are far from me. And now all my energies are for me. People no need no more vampire. Let your energy be your light. Me tell ya about fire from Babylon. When them a go play the dance floor gets hot. People no need no more liar. Let your energy be your light. Fire upon Babylon. When them a go play, Babylon's burning. Boom! This is the real mad sound in the area. Missy La Tella them. Big up fire upon Babylon. Eh sì, prima, scusatemi, Virtus, ora Miss Tilla, vi hanno ricordato un po' chi siamo noi, siamo Fire from Babylon, spingiamo buone vibrazioni a Roma e non solo, tramite anche l'etere, però quello digitale, www.pirateradio.it, questa è la radio e Port Royal è il programma, è un po' come... Un momento di ritrovo spirituale, un po' di meditazione, un po' di medicazione. Medication, your medication makes me high. Just be patient, I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine, elevate. makes me high. Yeah. Such a short way up and such a long way down. And this is a bubble like where they are right down. The way you're something off it, I feel way by pound. In a field of marijuana, that is my playground. I love you, Mary Jane. You're the prettiest of flowers, girl, me can't complain. When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain. Cause you know the people damaged like that bitch cocaine. No, I leave them lonely, feeling only pain. Cause your DNA is of the highest strain. Your effect is so potent, it's so insane. You so gummy and sticky like a plaster stain. When you grind out your body, only stems remain. And to love you is so risky, I might get detained. You always keep me flying on the highest plane, and anybody know we'll always proclaim. Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find medication. Run your fingers down my spine. Medication. Your medication makes me high. Your leaves of green. Your purples and blues cured little kids and old women too. And I say to myself, what a wonderful herb. And I say to myself, what a wonderful herb. Look how Babylon stood up me. Them fight to few years for your love, only per man serve years. Babylon stood up me. Them fight you for years. I know the whole of them are by shears. You should be a celebrity amongst any tree across the seven seas for your energy. But you're an enemy catching felonies for the remedies in your recipes. Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find medication. Special dedication, fire from Babylon. Osh, silete hotello a Catawali in the dance, love and a big respect. No! Accendino! Out in the street, they call it murder. Boom, bago, bago, bom, the mic, aluminium, cool and man, cool and man, love. Hey! Romana, Romana, Romana, amor. Fire, fire, fire, fire from Babylon. Romana, Romana, Romana, mon amor. Fire, fire, fire from Babylon. Romana, Romana, Romana, mon amour. Quando m'entro dentro che me parlo da solo, guardo Roma, guardo sta terra. Sento fire from Babylon de sta città, dove son nato, dove son cresciuto, dove è tanto tempo che mi sento radicato, dove mi padre e mi madre senti m'hanno insegnato che ogni uomo su sta terra va rispettato. Sta città, ai ai ai ai, il cuore di Roma. Ai ai ai ai, il cuore di Roma. Il cuore di sta città, ai ai ai ai. E Roma, Roma rossa, giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Roma, Roma rossa, giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Mamma, io la ringrazio d'essere nato qua. Mamma, io la ringrazio. Mamma, io la ringrazio d'essere nato qua. Mamma. Romana, Romana, Romana, amor. Faia, faia, faia, faia, pom Babylon. Romana, Romana, Romana, mon amor. Romana, Romana, Romana, mon amor. Faia, faia, faia, faia, pom Babylon. Romana, Romana, Romana, mon amor. Roma romanità te basta poco per sta brilla. Ogni due giorni in giro per Roma fai a pom Babylon. Geograficamente, storicamente pochi rivali su sta terra. Hotello e Osh fanno una danza che te taglia. Ci metto pure la carbonara, la sorella e lì castelli. È certo che l'acqua di sto mare non è che a noi certizi. Così che l'uomo che pensa agli progressi esagerati se scorda che qua Roma ancora pieno di camerati. Ai ai ai ai, cuore di Roma, cuore di sta città. Ai ai ai ai, diventa buono original Giovanni Killa che ha solamente per Fire Pom Babylon scene. Big up Patello che gli Towali, big up Pietro che gli Osh. Yes Emanuele che gli Smash, Ilario e che gli Ilario. Yamo mo. Senta Burmo original Giovanni Killa Chiat. Na na na na na na na na na na. Senta mostra combinazione speciale. Na na na na na na na na na na. Giomamo cucchilla chiat. Brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se mettia. Cucu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo class. Vieni alla danza Kuzmash per sentire la buona vibra che da Ilario arriva e la potenza della musica che nessuno mi limita. Ogni giorno mi stuzzica la voglia di cantare, ballare, esporre la mia lirica. Mo yamo, mo yamo, ve la caniscia l'amo. L'alba aspettavo, ve la caniscia l'amo. Senta Bruno Original, Fire from Babylon Champion Soul. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo clap. Boom! Ogni guaiuna chi trova li senta. Ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sciabato cuffata tu come palanca. Sì, sta musica c'è piaciuta. Come l'abbiamo sentita subito poi l'abbiamo amata. Poco dopo l'abbiamo conosciuta e imparata. Capita e rispettata. Tanto corona o super sempre conservata. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fire from Babylon, bombo clap. DJ Smash. Eh sì, dato che prima dicevo che Fire from Babylon spinge buone vibrazioni a Roma e non solo, ve l'hanno fatto capire anche Baracca Sound e Joman con Killa Cat, quindi Roma e Calabria combination come proprio Fire from Babylon. Io dalla Calabria e Osh e Towley from Babylon Town, from Rome, e noi siamo Fire from Babylon, questo è Port Royal e dopo ci sarà un piccolo regalo per tutti voi da parte di un real veteran della scena reggae bolognese e non solo. Pier Tosi ha preparato un mix tutto per Port Royal e per voi. Noi intanto andiamo avanti, eh sì, perché a noi piace un po' di musica di tutti i tipi, no? Dalla musica reggae alla musica roots alla musica dub, un po' di tutto, questo è il bello che ci unisce in questa big family Fire from Babylon, come ogni mercoledì dalle 21 alle 23 su Pirate Radio. Settimana scorsa siamo stati anche ospiti dei Kawa, mamma, che puntatona, potete ascoltarla sul sito archive.org. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano tramite il podcast oppure che ci seguono sui canali social, Telegram e quant'altro. Qui, come dicevo prima, a noi la musica piace in tutti i modi, quindi uniamo insieme la musica reggae e la musica hip hop. Parimo kill in dei documentari, siamo cinematografica, sicario. Un top la gamma, RS Q4 Q8. Femmina rati parto lo globo, non frate ricetta, canna cappa in un mojo. Su dai tu non mi è custode, 30 minuti live, anzi esattamente 30 minuti e 24. Vedi a più di che sa gang che contando, 10.000 euro solo, rinda all'aeroporto, e che faccio? Innamorami, innamorami, figli e papà. Potesse mi rasica, tu dovessi radicala. Aro dopo ta piccio, che mi chiede a chiamare madame. Aro bevo novina, che tu papà. E a fra. Noi pavamo punto, rimani ma mangi punto, perché nessuno mi dà schifo quando sono defunto. Faccio bagno che delfino, sto in Maldive, sto in Cavara. Ringrazio a Nati per in primis a papà e a mamma. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì, quanto dura l'orino. Gioro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi sinistro. Funziona con la mo' black, passo tu se ne. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì, quanto dura l'orino. Gioro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi sinistro. Funziona con la mo' black, passo tu se ne. Yeah. Verde su Daytona, com'è che quando vincimo non applaudo, rindanato, rindanato, guarda pure a chi ci applaudo. Ricci vinci a Napoli, non sono i banchi sui miei, non sono i pata, ma in silenzio mi godo panorama. Guida amico Panamera, sei anonimata. Sono chi mi blocca, ma difende in strada. Danno parlati cosa faccio, penso all'avvocata. Chi ci dice no, solo mo, prima no, perché non te ne vemo, manche so, manche bro. E chi ci diceve no, quando no, vado qua, vado qua. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì, guarda dove l'orino. Gioro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi a sinistro. Funziona con la mo' black, passo tu se ne. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì, guarda dove l'orino. Gioro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi a sinistro. Funziona con la mo' black, passo tu se ne. Come cane, direttamente dal litorale, Rough Note famiglia, e piglia fuoco sta dance. E punta a posto, vai a pombabi la suonare il posto. E punta a posto, vai a pombabi la seletta rapida. Uccide Sambo e assombi giù di lapida. Decapita, io di alto ormai ci abita. Hai l'aria upon the control, boom, occhi occhi capita. È una sconfitta matematica, non rosicare. Otello strilla come erotica, non puoi sfidare. E tu fai ciacciazzi, puoi solo parlare. Ma il dubbio poi che qualcuno ti stia ascoltare. Se suona Osh, la massima urla, oh my gosh. È legalizzi come tempi Peter Tosh. Se pensi ancora di poter competere, arriva Smash e ti fa smettere di poterlo credere. È tutto a posto, vai a pombabi la suonare il posto. È tutto a posto, vai a, è tutto a posto, vai a pombabi la suonare il posto. È tutto a posto, eh sì, ce l'ho anche ricordato, Core Cane, che è tutto a posto quando fai a Bombabilan, suona nel posto. Ringrazio ancora Core Cane che è stato ospite lunedì a Rap and Club, il programma che, di cui mi occupo io ogni lunedì dalle 21.30 in poi. La prossima settimana invece occasionalmente di venerdì 29, per salutarci con l'ultima puntata del 2023 anche di Rap and Club. Settimana prossima il 29 di dicembre, quindi sintonizzatevi su www.pirateradio.it. Come dicevo, Core Cane ha presentato l'ultima sua traccia Rock and Reel a Rap and Club con una mini intervista, ha presentato il pezzo e ha detto che a breve uscirà qualcosa di nuovo, ma ritorniamo a noi, anche perché, come dicevo prima, ci piace un po' tutto della musica in generale. E quindi, Mattune, here it is! Original Mattune Quai, Fire Pop Babylon, Hilario, Smash, Osh, Taweli, Cirque Quai! Divento accecato quando sono sopra un palco, la fonte mi uccide, non capisco proprio un cazzo. Il cervello esplode come con 6 litri d'alcol, prendo queste note al volo come fosse un falco. Io ne voglio ancora di sta shit, non mi salzo. Vieni nella base e ti mostriamo il nostro shuttle. Con Fire Pomp Babylon andiamo nello spazio. Viaggi interstellari con i miei soci all'assalto. Bam bam, spari in alto, bam bam, suona Fire Pomp Babylon. Gang bang, gang bang, oh baby siamo open mind, siamo open space. In giro devastato fin dai tempi del MySpace. Alza un po' il livello, solleviamo questa scena. Nasce sta new wave, frutto della quarantena. Boom boom, la dancehall trema, sbraccia ci pensiamo noi. Suona Fire Upon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Suona Fire Upon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Ma si vede bene più si sa anche se fake. Hai la carta del papino per comprare i tuoi da play. Lo sappiamo tutti che ti vendi per il live. The Nike, il live, the Nike, il live. Sound Unity è ribelle nella maniera più cool. Sai, lanci con il Tris ma io nascondo il full. Ci rimani fissa fissa fissa per sto groove. We are full of groove, we are full of groove. Boom boom, chica chica move move. You know, ancora in fissa soul groove. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Ancora boom boom, chica chica move move. Ancora in fissa soul groove. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Suona Fire Upon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Suona Fire Upon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Mattune ve l'ha detto chiaro, tutti gli stili che vuoi, al resto ci pensiamo noi, Fire Upon Babylon, porta gli amici tuoi, ma oltre alla musica, fagli sentire tu, Gamba de Lek, cosa ci piace a noi, faglielo sentire. Fai a bomba Babylon discriminato per la passione che ha del cioccolato. L'hanno quasi ricoverato perché è uscito pazzo per il cioccolato. Pula! Eh sì, l'avete ben capito. A cosa si riferisce Gamba de Lek? Proprio quello, il cioccolato. Pull up and come again. Voglio Fire Upon Babylon sound. Boom shot. Come fa? Fire Upon Babylon discriminato per la passione che ha del cioccolato. L'hanno quasi ricoverato perché è uscito pazzo per il cioccolato. DJ Smash l'hanno estradato con una firma del suo stesso stato. Con la scuola in gita in Grecia l'han beccato che se l'era portato. Osha e Ilario andati in India e già non tornan più. Con Otello ho detto tutti i nomi della crew. Gente che ti fa scordare i problemi che hai tu. Quando seleziona nella danza le switchune, allora uova di cioccolato fresche da Roma m'hanno appena portato. Osh fa un biscotto di cioccolato, ma alla fine è Otello che se l'è mangiato. Bada-bang! La mattina appena alzato, caffè, latte e cioccolato. Smash e Ilario l'hanno provato, mo indovina chi dei due se l'è schioppato. Con le mani su, mamma mia che ciocco, c'ho il ciocco marocco, ogni giorno sciocco e la testa ciocco. Musica per gioco, Babilonia a fuoco, quando suona Fire Upon mi sembra un terremoto. Allora c'hanno quel che c'hanno in tasca, c'hanno il cioccolato. Ciocco dello Smash e Ilario ed Osh hanno collato, ciocco nella mutanda, ciocco manda e rimanda, ciocco dentro un tubo e dopo tutti quanti in branda. Allora prendimene, prendimene, prendimene, prendimene un tocco, dammene e pure molto. Prendimene, prendimene, prendimene un poco di più. Sì però fa in fretta perché non aspetto più. Allora buono il cioccolato, così buono il prelibato, per me come roccolato, ma mi sento coccolato. Amato, sono stonato, nato, però sono pure gioco appassionato. E mo, ciocco non gioco, lo so che lo Stato non vuole, però non mi importa, lo voglio per il suo colore, per il suo sapore che assumo a go-go. Fire Upon è patentato, ad ogni danza torna rintronato. Babilonia ormai bruciato, se la son fumata come il cioccolato. Ma se tu te la vuoi fumare, giustamente, come devi fare? Ci vuole una fiamma. E rimaniamo sempre al nord con Vibe Delivery, Gimme the Lighter. E io, questo è Vibes Delivery, a rappresentare Fire Upon Babylon from Roma. Listen! Gimme the lighter, gimme the lighter. Sopra sta Babylon, ma noi facciamo fire. Gimme the lighter, gimme the lighter. Chi si è nella dancehall o in radio pirata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Sierra maestra ti organizza la serata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Fire up Babylon, stai dopo un po' per la strada. Questa storia nasce forse nel 2010. A Roma c'è fermento a suonare tra gli amici. Vibra lo zobar per gli impianti sempre accesi. Rispetto ed edizione, i DJ si sono uniti. La capitale era pronta, stava aspettando. Un sound system bad pronto a bruciare tanto. Se Otello sta in console, noi moriamo di caldo. Borna Babylon, quanto brucia questo asfalto. Big up in Selecta, DJ Smash e Osh. A Ilario fuma bombe che manco Peter Tosh. L'evoluzione da fratelli a divenire crew. Spingono le super tune, puoi sentire groove. Da Bergamo a Roma fino alla Calabria, puoi sentire questo sound in tutta l'Italia. Spingono le vibes, manco fossero in Giamaica. Bruciamo Babilonia, Yaman, gimme the lighter. Gimme the lighter, gimme the lighter. Sopra sta Babylon, ma noi facciamo fire. Gimme the lighter, gimme the lighter. Chi si è nella dancehall o in radio pirata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Sierra maestra ti organizza la serata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Vai a po' Babylon, sai lo pompa per la strada. Otello compra dischi, Giamba scrive testi. Arrivano col sound che sembra brutti ceffi. Montano muri di casse e si fa la festa. Toaster, selector, soundman, barista. La massi fa resto, la fotta fa resto. Non aveva niente ma han creato un movimento. È la voce della gente che esce dalle casse. Se seleziona a Ilario puoi sentir la classe. Girano i dischetti come girano le canne. Falle rollare a Tosce che le fa su belle casse. Il mini sound system spacca il tuo ghetto blaster. Original sound, dischi se porta tarde. Ora la del sol ha sconfinato e contagiato tutti. Smash break e music in like a chatti chatti. Onora sta cultura anche se non piace a tutti. Otello sta in console per i pussi sono cazzi. Gimme the lighter, gimme the lighter. Sopra sta Babylon ma noi facciamo fire. Gimme the lighter, gimme the lighter. Chi si è nella dancehall o in radio pirata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Sierra maestra ti organizza la serata. Gimme the lighter, gimme the lighter. Vai a po' Babylon, sai lo pompa per la strada. Originale Vibes Delivery, questa è Fire Upon Babylon. Otello e KJ Toweli, DJ Smash, Osh, Ilario, la crew di Roma che borna Babilonia. Only positive vibes, Fire Upon Babylon. Eh sì, come dice Vibe Delivery, come dicono Vibe Delivery, only positive vibes. E adesso è finita la mia parte, il mio spezzone. E come dicevamo all'inizio della puntata, come dicevo all'inizio della puntata itinerante, adesso è il turno di mio fratello Toweli, che presenterà anche l'attesissimo, come dicevo prima, special di Pier Tosi, original veteran from Bolo Town. Quindi vi lascio nelle mani sapienti del grande e nostro fratello Toweli. Vi ricordo l'appuntamento invece con Pirate Radio mercoledì prossimo, no, l'anno prossimo. Vi lascio quindi nelle mani di Toweli e dopo Pietrosh. Un abbraccio e grazie ancora per averci ascoltato in questo spezzone. Averci ascoltato, plurale maestatis. Dai Otello, pensaci tu che io sto sbalvolando. Ma sì, ma dai che vi abbiamo ascoltato. Speriamo che lo studio diffuso stia funzionando. Ci proviamo. Ammazza, oh, perfetti! Questa è la mia prima tune. Bella a tutte e a tutti. Questa è Port Royal, tutti i mercoledì. E questo è il simpatico Brusco. Namo, bella tutta la Bergamo Reggae Massive. Easy. Brucia Babilonia quando te lo suona. Namo, run the rhythm!

say Christmas on a broke pocket day. Wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. Per tutte e tutti, we wish you a Rasta Christmas. Ve se vuole bene, massicce e massicci. Salutiamo Sadisha. Salutiamo tutti gli amici e le amiche delle varie chat di Reggae Mania. Tutti gli amici di Port Royal. Vi diamo appuntamento il 27 al Branca. Festone della radio, eh? Daniele Savelli, i Manicaretti del laboratorio radiofonico e ovviamente Jolly Roger. Poi il 30, penultimo d'anno, Arcelli Brown. Pita Tosh, Ray Eye, Inner Circle. Everybody gonna jump in and a shoutin'. Everybody gonna jump in and a shoutin'. And Ben Johnson dear, we wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. And a dance I'll do. Everybody in the dance I'll singin'. Everybody in the dance I'll rockin'. Everybody is skanking and a rocking and a broke pocket. Ciao a tutti amici, sono Bull di Africa Unite. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I, buona sesso, wicked. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. Massive Familia, I am Aresha from Canada. I'm gonna big up Port Royal and Fire Upon Babylon, playing some big tunes every Wednesday on Pirate Radio. Scene, more love, bless up. Imagine Christmas come and I don't even have 1 cent to buy it up. Wadada, wadada means love. Loving Africa, loving Jamaica. What I need to really tell you when you need. Ladies and gentlemen, supportate Port Royal Pirate Radio, supportatela, scaricate, ascoltate, perché ci sarà da divertirsi. Click click click click click. Because I'm coming from the American blood. I'm here to really set a better example. So make me touch you by your dimple. I'm a play with you in simple. Come on, come. Dai a tutti, sono Sistawa, sostengo Port Royal, Fire Upon Babylon e Pirate Radio. One love. Don't Allora massicci e massicce all'ascolto per augurarvi buon Natale e per fare questo sorpresone ad Osh che darà il cambio, lo special mixtape fatto da quel santuomo, da quell'icona della reggae music italiana, Pier Tosi, direttamente da Bologna, per 40 minuti sarà con noi. E quindi io a sto punto schiaccio play e poi mi aspetto gli insulti con ritardo dei 40 secondi, perché giustamente ve l'abbiamo detto, no? Siamo in ambiente diffuso, quindi da una quarantina di minuti in bocca a Osh. D'altronde è l'ultima dell'anno ed è regalo di Natale per tutte e tutti. Bless up Pier Tosi, che poi risentiremo anche in intervista in diretta insieme ai new tecnici, scusate, new tecnici, insieme a Virtus, però diciamo con l'anno nuovo, no? Faremo una special puntatona di 7 ore, ma intanto Pier Tosi per tutte e tutti e soprattutto per Port Royal e Pirate Radio. Da un party 100% reggae music. Oh boy. Uni dal 1993. Yes man, you we are dealing with. Good night. Original Party Aswad Warrior Chains, che Pier Tosi me le manda le scalette, eh? Ogni fatto o riferimento a persone della mia crew è puramente voluto. What a bombo night! E tra l'altro, bombo night al Sally Brown, più o meno una settimana fa. No beh, oramai 10 giorni fa. Seratone, Pier sempre in forma. E anzi lo ringraziamo ancora. L'avremmo voluto intervistare, ma appunto con lo studio ballerino non si poteva fare. Recupereremo. Sono i buoni propositi per l'anno nuovo, no? Shoot. we need is solidarity. That's right. What we need, what we need, what we need is solidarity. What we need, what we need, what we need is solidarity. That is what we need. What we need, what we need, what we need is solidarity. I tell you what, 'cause things are looking dread now. We fight among ourselves now, eh? Well, everyone laugh us to scorn. Yeah, hey, it's time that we know now to have respect for ourselves now, eh? 'Cause you have been advised and forewarned. So take a look at yourselves, 'cause I want you to know now. Tell me how your brother man can be a foe. No, no. All this self-hate won't make you grow now. Not too much bad mind, got to let it go. Yeah. Oh yes, we need some solidarity. Yes, we need, yes, we need, yes, we need some unity. So let plant that seed of peace and unity. No longer divided are we, pure harmony. 'Cause this is no illusion, illusion, positive vibration, vibration. Stop the self-destruction. Yes, I am. So the wicked are come with their evil intention and bad vibration. We say no bad vibes. No, sir, no, sir. We no want no bad vibes about ya. Come out of we area. We no want no bad vibes about ya. Bad vibes, you better leave ya. We no want no bad vibes about ya. Come out of we area. We no want no bad vibes about ya. Bad vibes, you better leave ya. Sure. Hey, bad vibes, where you think you a go? Can't bring your negativity round ya, so. Your wicked intention, we no follow. Only article people, they are so. We don't know the plan and we know the agenda. I don't have amnesia, so I'm a remember. Consciousness, I am I a defender. Never retreat and never surrender. The bad vibes, we return them to sender. Yeah, we no want no bad vibes about ya. Come out of we area. We no want no bad vibes about ya. Bad vibes, you better leave ya. We no want no bad vibes about ya. Come out of we area. We no want no bad vibes about ya. Bad vibes, you better leave ya. No wicked cannot enter in this arena. No wicked cannot enter. Wicked can't come in ya. Oh Jah. Hey bad vibes, you na hear what we say. Move from here so we a tell you fig way. Them the kind of vibes can't come where we dey. We no have no time for the wicked today. We don't know the plan and we see the intention. People you affecting are too much to mention. Creating negativity, creating tension. We no want and so we deal with prevention. Look to Jah and seek your redemption. Oh Jah, we no want no bad vibes about ya. Come out of our area. We no want no bad vibes about ya. vibes, you better leave ya. We no want no bad vibes bout ya. Come out our area. We no want no bad vibes bout ya. Bad vibes, you better leave ya. Says Pat's on her way, and with her the sailors, oh my little baby. Hi, I'm under pressure tonight, tonight, tonight. Yes, I'm under pressure tonight, tonight. Oh, now Molly is a dolly and she treats me so well, but cutie kind of loving puts me under a spell. Pat is demanding, she's a jealous type, and when she gets here it will be hell tonight. Hey, I'm under pressure tonight, tonight. My body's aching, under pressure tonight. Oh now, my temperature now, under pressure tonight, tonight. 105 and growing, I'm under pressure tonight, tonight. Oh God, now skip, skip, to do do do, a rootly ding de ding de ding de do do do, yeah. Skip it up, ta do do do, a ring de ding de ding de ding de do do do, yeah. Now under pressure tonight, tonight, tonight, yes. I'm under pressure tonight, tonight. Help me. Will someone with experience tell me what to do? Cause I can't take another of Pat's curfew. She's too demanding, the jealous type, and when she gets here it will be hell tonight. Hey, hey. Le parole a volte non servono. Tonight, la selezione dei Piertosi se sta a favola a tutti. Tonight, what a bombo ciù. Tonight, 105 and growing on under pressure tonight. Beressone, uno dei pezzi meno suonati. Che chun, grande Pierre. Per tutti gli amici e le amiche bolognesi e anche emiliane, ma pure nazionali, eh. Vi ricordo che Pierre c'ha una trasmissione tutti i martedì 103 e 100 in FM a Bologna e provincia, Radio Fucico, in streaming, in podcast, vatte alla cerca. E continuiamo. Un amico di tante battaglie. E anzi, dopo questa faremo una piccola pausa nella selezione. Where is the referee? He's nowhere around. He can't be found. Intanto saluto le mie sorelle all'ascolto. Strictly goodness every time. E per una volta non parlo di sorelle filosofiche, ma proprio di sorelle. Yes, Erika. Una delle prime intervistate, tra l'altro. Yes, Cristina, che prima o poi intervisteremo. Dai, Filippo Detto Lucio, Mattia, Daniela. E Orazio Pondi Voice. Where is the referee? He's nowhere around. He can't be found. Too much bullets are flying. Even spectators, they can't be found. If life is for living, then why man I kill so? And the man that knows sound system, see? So let her make a nice up the land, man. Run it! Oris, sleepy and the setup. In the bottomless pit, hey, they are the oh, yeah, yeah, yeah. Lady Flavia, Villa da Posse, Port Royal, Red Gold Green e ovviamente Pirate Radio e il mitico Tello, la Shine D, dai forte, bless! Un grande big up dalla Lady Flavia della Villa da Posse. Fire Bomb Babylon e a te Otello ovviamente, e un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Port Royal su Pirate Radio. critical, critical. Grande big up dalla vittoria della Villa da Posse a Faia Pound Babylon e a te Otello ovviamente, e un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Port Royal su Pirate Radio. She's a militant soldier. She feel it critical and vertical. No, we can lock it empress. And sure we can talk together too. And never let it fall down, no stress. Farò una battuta da vecchio. Vabbè che si avvicina Natale. Alvin e i Chipmunks ancora gliela mollano. So we better speak clean. Però insomma, il saluto di Lady Flavia era da far sentire a velocità normale. Sono così! Bella a tutte e a tutti! Ultima puntata dell'anno! Pre-natalizia! E poi l'auguri per l'anno nuovo! 27 al Branca! 30 al Sally Brown! E se no, tra i buoni propositi dell'anno nuovo, sicuro se rivedemo 11 gennaio, secondo giovedì, come sempre, come ancora, come allora. Faia Pound Babylon Resident Scaru the Pub. Ospite Stugolo. Auta a star bene. E si ci casca MC Sola. Che così si fanno pure una cantata insieme. Per il nuovo anno, per cominciare bene. Sicuro lo stiamo a chiudere benissimo. Special mixtape regalatoci da Pier Tosi, original veteran. E la chiusura la farà il veterano del sound. Osh Selecta. So we will never see them badness and them hypocrisy. Pensate, quando io ancora suonavo coi CD, Osh già c'aveva una bella collezione di dischi. Organizzava le serate al Dread Lion. Io ebbi una bolla papale da Turud per essere stato il primo con i CD e i CDJ miei all'epoca per poter suonare al Dread Lion. Ayrton Faia già ci suonava. One by one, send them on close of that land, send them home. One by one, lock them in the key I never open. Send them, send them. Poi una certa se siamo innamorati, poi se siamo litigati, ma ancora stiamo qua a Borna Babilonia dal 2010 come Faia Pound Babylon. Sì. And like to speak of people in love and like to live ya here. Yaga yaga yo, yaga yaga yaga yo. Holy bad mind, what I can. Holy parasite, come on guy. Holy vampire. And culture, I tell them I about how them boss got lean. But I don't have no time to mingle and see him. Cause while I said I was a messenger to teach you about roots and culture, I tell the mass if you remember Jah, that's all I am doing. I am, yeah, I said I was a messenger to teach you about roots and culture. I tell the mass if you remember Jah, that's all I am doing. Come Piertosi, che ci ha regalato sta selezione. Uno dei più grossi king di sta musica, regà. Luciano. A proposito di aneddoti, ancora me lo ricordo quando al Branca, sotto un acquazzone clamoroso, si fermò a stringere la mano a tutti noi che stavamo lì a sflaierare. Altri tempi. Almeno 13-14 anni, eh? Minimo. Bless up a tutti gli amici di Gemini Network. A tutti quelli che si sbattono per portare avanti un messaggio via radio. La filodiffusione ci salverà dall'oblio. Io no. Dieci minuti ancora per la selezione di Piertosi e poi la chiusura di Osh Selecta. We need to understand, so we give our best and be the best that we can be, so that the world can see just how it ought to be. So just live a little life, a day at a time, do the little things as a matter of sight. I know the way is laid, and Jah is always there, and I'll try to do the good things that I can. Just live a little life, a day at a time, do the little the side. I know the way is laid, and Jah is always there. And I try to do the good things that I can. Show no love to everyone, and life is only fair. Cause love is Part of my life, come la reggae music, una delle mie tre grandi passioni, so close, so insieme alla S Roma. La prossima sarà ultima tune della selezione di Pier Tosi per tutte e tutti i massicci di Port Royal e Pirate Radio. Questo era il nostro regalo di Natale, ce l'ha fatto Pierre, l'abbiamo voluto condividere con tutte e tutti. Ma mica è finita, eh? Dai che tra 5 minuti in bocca Osh Selecta per fare la chiusura dell'anno praticamente. E poi se vediamo in faccia per farsi l'auguri. Inutile ricordarvi il 25 sera la strada, eh? La dancehall di Natale. Soul Roots, Villa Ada, Barbarei, Mashdow Babylon, eppure Irene quest'anno. Ultima June per Pier Tosi. Nel frattempo si prepara Osh, ma è pure in persona, cazzarola. Che regalone che ci ha fatto Pier. Appena torniamo in studio lo chiamiamo e ci facciamo fare un saluto in diretta, no? Everything blessed. We don't do stress, just own the stress. In the elixir, then I get access. Oh yes, me possess through progressiveness. So the next time someone asks you what's the pre, put a smile upon your face and just reply with simplicity. Divina magia que inspira, los soles, la clave, mi verbo cantando. Conexión divina, magia que inspira, tambor sonando, la gente bailando folclor negro. Para su guayo, la rumba me está llamando. Yambú, Colombia, guaguancó, garzón, guaracha y mambo. La rumba me está llamando. El quinto y el treto y el tumbador viene cantando. Llamo a ver. Che era l'ultima puntata, grazie a tutti e a tutti per averci sostenuto quest'anno, grazie a tutti gli artisti che avete sentito nei vari special e anche a Lady, perché insomma Martina è un'artista nel suo campo, la donna più veloce del mondo, del mondo. Questa era l'ultima tune di Piertosi, che ringraziamo, salutiamo. E con questa vi facciamo gli auguri. Io stacco, roba de poco, e dovrebbe in bocca a Osh. Bless up yourself. Yes people, ultimo cambio di questa puntata, ultima puntata di Port Royal del 2023, puntata via etere. Un salutone ai miei fratelli Tauli, che mi ha preceduto con questo regalone di Piertosi, una selezione super. Un saluto a DJ Smash, anche loro rispettivamente nelle proprie case. E io ringrazio tutti e tutte, perché è stato un anno particolarmente ricco di interviste e contributi. Ormai quarta stagione questa di Port Royal, e io inizio così. Scusate l'emozione dopo le selezioni di Piertosi, e vado di play. La da da da. Went to a dance last Saturday night. I was feeling tipsy and the mood was right. Sight a little daughter and I step in another corner, 'cause I feel like dancing all night. But I said, cool down the pace for me, little woman. You're dubbing it too fast for me. I cool down the pace for me, little woman. That's not how it should be. I told her to try. I don't know why. No use trying, 'cause she can. And so she do it how she wants. So I said, cool down the pace for me, little woman. You're rocking it too fast for me. Ma che puntata, quest'ultima puntata di Porto Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. You're rocking too fast for me. I see desperation, that's why me

e speriamo in un 2024 pieno di reggae music e tanto amore. Un anno che è passato, questo che sancisce la quarta stagione di Porto Royal, e proseguo con le selezioni. Rigging and jigging to the King of Zana bring the man called Junior Dread, the man called Brother Culture in a combination style. Bound to make you versatile, strictly disciplined child. Now we got the control, we have the oldest strong. I'm on a rocket and we lock it, so we have to keep the control. Cause we no play no games, cause we a rasta, we no beg no friend. We got the control, we have the oldest strong. I'm on a rocket, can we lock it, so we off we keep the control. We come fi bless them all, no one can stop we now. Chama say Jackie, me a Jackie, and I move down the street. Dance who done, me come fi mash up the tape. Beg you come early, no bother come late. Go tell them Culture B, no hesitate. Why? Me a work for the mic, your man, and this year youth now wait. Me roll up on the mic, and this year wanna heavyweight. Me move up past the border, and the people know I me. Come down, we in a party, hey. Now we got the control, we have the whole strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we off we keep the control. Cause we no play no games, cause we a rasta, we no beg no friend. We got the control, we off we all is strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we off we keep the control. We come fi bless them all, no one can stop me now. Chums and live torpedo come to sing boat. Time a run out, no time to make joke. When me come a dance, the vibe must revoke. Me hold for the microphone and then them know me no joke. Me a chat when the bubble in my pen, the bubble in my make up a rock. Bubble in my make up a rock, and this a youth man pon the top. Me say whether them a come from near round, me say whether them a come from far. Junior Dreddy, my the body singer, hey. Now we got the control, we have the whole strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we off we keep the control. We no play no games, cause we a rasta, we no beg no friend. We got the control, we off we all is strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we off we keep the control. We come to bless them all, no one can stop me now. Thomas say sometimes me humble, sometimes me switch. Some of them a go on and them a fin get ditch. Me a whoop at the bubbly mic, a this year you man come for run. And when me come a dance, me not take it for fun. Junior Dread up on the right and Culture B up on the left. And we dub it to the blind and to the cripple and the deaf. And me dub on the microphone and everybody know I'm me. Ragamuffin on the mic MC, hey. Now we got the control, we have the whole strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we have to keep the control. Cause we no play no games, cause we a rasta, we no beg no friend. We got the control, we have the whole strong. I'm on a rocket, cause we lock it, so we have to keep the control. We come fi bless them all, no one can stop me now. Confidence, yeah, the rootical. You don't know me, come fi mash it up in at the Trinity. You find me skanking by the sound system willingly. Skipping two step, me show a viability. I can't seem to get enough of this is community. The way I love it all, I travel far and wider for the sound and the vibes. Said I travel far and wider in search for the music that. Session, we bubbling. around. So try fi grab me up, me want no trouble in. And find the spice rum buckle that I be pocketing. And then they drank it all. I tell him I don't mean no wrong. Here for the rubber dub, I love to sing along. But I bet I'm, but I bet I'm, yeah, he can mouse. I am a student at this music, I need a chance. So can you let me offer? I travel far and wider for the sound and the vibes. I said I travel far and wider in search for the music that I might follow. I travel far and wider for the sound and the vibes. I said I travel far and wider in search for the movement that. Ancora non era chiaro, questa è l'ultima puntata del 2023, quarta stagione di Port Royal. 2023 è stato un anno particolarmente diciamo vissuto sotto tutte le forme di violenza, guerre e chi più ne ha più ne metta. Noi di Pirate Radio condanniamo, e anzi noi di Port Royal ci facciamo portatori di un cessate fuoco in Palestina. E proseguiamo, queste sono anche le buone intenzioni per questo 2024, e proseguiamo le mie selezioni in questi ultimi minuti di Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Whoa, oh, oh. Federation, yeah, me know. When me say Sperlina build up our confidence, Rastafari run the continent, this King Selassie I pay the consequence, don't get it confused. Pirata Eredia è portatrice di pace e buon umore. We mix up the roots with Medina. Come off a tour, me and my friend Kenny Mees. So we go a warp road and go link leave. Have a good for your nerves, so what's up and support. A coconut water fi wash off your heart. Hey, nobody could have said Rasta soft. Me go link weave a force and never fever grass. So then, me get a call from Jackie Lynn. So me have a job for Sperlina, farmer Sperlina. Rasta no deal with the lame thing. So tell me Empress Divine, selfie rock and come in car. If you not get it, you will lose. Make your food be your medicine, your food. Blend up the carrot with the lettuce in a juice. No fear for mix the vegetable with the fruits. Come again, give me a bottle of Sperlina. I make we mix up the roots with Medina. Come off a tour and mini feel big. Go a warp road and go link. Wada da den. Give me a bottle of Sperlina. I make we mix up the roots with Medina. Come off a tour and mini feel big. Me drive go a hope road. Up. Well it was under the sour sap tree. My woman brings a butter for me. Tell her it was under the sour sap tree. Say she was married to me, yeah. Under the sour sap tree. My woman brings a butter for me. Tell her it was under the sour sap tree. Say she was married to me. Just the other day, me flying from New York. Me and my girl stop, we get a 17 buck. From Viva City to a window in Africa. Him know how we think set. A Sperlina, we blending, so you know I'll be spending every dollar out of my bill for. Oh, yeah. A buckle of the green and I hit make me queen. So me skill like call and skill call. Well I'm moving proper canics, lyrics and fall. I'm ever young and fresh, never old. Cause I look how me big, I'm a tough, I'm a broad, I'm a brave, I'm a skill, I'm a bad, I'm a bold. I mean sing sweet like a Nat King Cole. An old King Cole was a merry old soul. A devil sugar liar with a stick and a stone. The people ball chronics, don't leave we alone. Samson sue the Philistine with the donkey jawbone. And never know, so we are all our own. King Selassie, I'm seat on the throne. Rastafari is the king on the oh, yeah, me say, keep me a buckle of spiraline in the baba. Yeah, it's up in Rosed Medina. Oh, the rubber, the rubber, the rubber, the rubber, the rubber, the rubber, the bang, bang, bang. Berries. Woman, you can't leave me like this, no. Not 2019, is so young, girl. When the dance is getting so hot. Now, now, now, now, no. Like fire. You can't leave me like this, no. Baby girl. You gotta give it a shot. I like you a lot. Shiny people up on the spot. Yeah, yeah, tell you this. A river time under the bass and treble time. Baby girl, don't you worry, not fret. Yeah, see the sign on every time we combine. Girl, you know, say we keep it fresh. Boy, loving the way that you be looking tonight. Girl, you keeping it fly. Girl, when you in that dress. Oh yes, and as the night does progress, I know you're feeling alright. Under your romances, impress. Don't left the dirty in a mood like this. Berries. One of me say one more drink to me head. What's a buckle? Or should I have a big spliff instead? Blast me say one more drink to me head. What's a buckle? Tell them. Woman, you can't leave them me know. Like this, no. Please stay, baby girl. When the dance is getting so hot. Now, now, now, now, no. Volcano. You can't leave me like this, no. Don't do it. You gotta give it a shot. I like you a lot. On the spot. She press it back and now the sweat wall to wall. And her body keep calling me. Ready to give her the vibe and put all in. Me know me not stalling. Me give her the love properly. Free the lock cause I got the key. Don't let this moment go to waste. Tell her that would be wrong, girl. Tonight can never be replaced. But bang, bang, bang, bang. We never feel like that. A rubber dog never smooth like that. No, rubber dog never feel like that. A rubber dog never cha cha cha cha cha cha cha. Woman, you can't leave me like this, no. Not 2019, it's so young, girl. When the dance is getting so hot. Now, now, now, now, no. Like fire. You can't leave me like this, no. Baby girl, you gotta give it a shot. I like you a lot. On the spot. Yeah, yeah, tell you this. A river time under the bass and treble time. Baby girl, don't you worry, not fret. Yeah, see the sign on every time we combine. Girl, you know, say we keep it fresh. Boy, free up yourself and let it flow. Freely. You have to understand the dance hall. Know how it flows. Lifestyle. Free up yourself and let it flow. Baby girl. Everything Jamaica does, the world follows. Wanna me say one more drink to me head. Or should I have a big spliff instead? Blaze say one more drink to me head. Tell them. Rubber dog we never feel like that. Make them know. Rubber dog never smooth like that. No. Rubber dog never feel like that. Bang bang bang bang. Rubber dog never cha cha cha cha cha cha cha. Jamaica. our history, roots and culture is very important for the future. Why pass in the essence to be somebody else? It's best to stand up for something than stand up for nothing. One thing I know for sure, a true Rasta man will always be a Rasta man. A true Naya Bingi will always be a Naya Bingi. A true Tweh tribe will always be a Tweh tribe. A true Bobo man will always be a Bobo man. Where is the hairy man? Where is the one of man? That's the way we used to function as one. It's been a long time now since I've not speak to my people. Marcus Garvey opened the door of Jamaica and spread Jamaica all over. Rastafari advertised Jamaica, advertised the roots and the culture. There is more to balance than not falling over. We are moving on, we are moving on. Come sweet Jamaica. We are moving on, we are moving on. Come green Jamaica. We are moving on, we are moving on. We want at the roots and the culture. Yes, we are moving on. Why pass in the essence to be somebody else? It's best to stand up for something than stand up for nothing. One thing I know for sure. A true Rasta man will always be a Rasta man. A true Naya Bingi will always be a Naya Bingi. A true Tweh tribe will always be a Tweh tribe. A true Bobo man will always be a Bobo man. Where is the hairy man? Where is the one of man? The way we used to function as one. It's been a long time now since I've not speak to my people. Marcus Garvey opened the door of Jamaica and spread Jamaica all over. E siamo arrivati ai saluti finali. Termina così questa stagione 2023 di Porto Royal, quarta stagione. Un saluto nuovamente a tutti gli amici, a tutte le amiche. Speriamo in un 2024, come ho detto prima, pieno di pace e amore, e ci risentiamo nel 2024. Intanto un saluto a tutti e a tutte, buone vacanze così. Buon Natale ovviamente. Thank you. every day and every night we'll be together, with the roof right over our head we'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. We'll chop up on a bread. Every day and every night.